nessuno si aspettava un risultato incredibile rispetto al nostro candidato, rispetto alla candidatura di Nunzio Terme, e diciamo che è la spia di un percorso ormai avviato da anni, in cui l'insediamento sociale e la capacità di creare spazio pubblico a Roma, di alimentare conflitto e reti sociali, ha raggiunto livelli per noi impensabili. Insomma, è stata la spia, la testimonianza di un rapporto con la città che è cresciuto in maniera sempre più forte. E valutare dopo due giorni e 23.000 voti per Nunzio è capire che siamo in un'altra fase, siamo nella fase in cui siamo usciti dalla storia di resistenza, insomma, rappresentata dai centri sociali, e siamo entrati ormai nella capacità di questo movimento di valutare appieno la sua potenzialità di spazio pubblico, di creare consenso, di creare una progettualità alternativa ma concreta ai processi e liberisti dentro la città. Quindi diciamo è un risultato che ha sconvolto positivamente anche le nostre aspettative, visto che Nunzio comunque partiva da una base di voti elettorale a Roma che era di circa 1.500 preferenze nelle scorse comunali del 2001. E analizzando specificamente i dati rispetto all'insediamento territoriale, vediamo che insomma e risultati positivi si riscontrano in tutte le zone popolari, in tutti i quartieri della periferia romana, dal Prenestino al Casilino a Cinecittà, nelle zone periferiche a sud e a est, in cui c'è stata la capacità in questi anni di riconnettere un tessuto sociale per tanto tempo disgregato. E le prospettive rispetto a questo spazio che abbiamo creato sono prospettive importanti ma non scontate. Infatti per una questione di collegio elettorale e di incrocio, insomma, di organizzazione interna, non è scontato che Nunzio possa diventare parlamentare europeo, ma rispetto al panorama, insomma, che Rifondazione ha offerto in queste elezioni, noi riteniamo che sia fondamentale dare uno sbocco, diciamo, istituzionale a questa esperienza, perché Roma comunque è stata protagonista di un laboratorio politico e sociale fondamentale, in cui l'interlocuzione con Rifondazione è stata un'interlocuzione positiva dal punto di vista dei passaggi concreti, non è stata un'interlocuzione ideologica, e quindi crediamo che questi passaggi siano valorizzati concretamente.